voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Walter Scavolini, le cucine come spazio da condividere, di Anna Marino. Io sono molto legato alla famiglia e in realtà credo che il momento del pranzo sia il momento più importante che si vive all'insieme di una famiglia o con la propria moglie, con i figli. Credo che sia il luogo più vissuto, il job deve essere un ambiente piacevole, caldo, secondo insomma, i gusti delle persone. L'importanza di riunirsi intorno a una tavola imbandita, tutti insieme, in un ambiente caldo e accogliente, è la chiave di volta dell'impresa di Walter Scavolini, fondatore e presidente dell'omonima azienda marchigiana. Nato a Pesaro nel 1942, così ricorda le origini della sua avventura imprenditoriale, che hanno profonde radici. L'idea di fare imprenditore, io credo che uno nasce imprenditore, perché io ero un ragazzo, ho lavorato per qualche anno come dipendente, però già sentivo da 15-16 anni la voglia di mettermi in proprio, anzi i miei genitori erano contrari perché ero molto giovane, giustamente, perché quando uno non aveva neanche 18 anni aprire un'attività in proprio è chiaro che ci può essere anche un certo rischio. Poi io avevo talmente, me la sentivo, e francamente poi alla fine anche la mia famiglia ha dovuto cedere alla mia, e ho iniziato questa attività. Penso questo, però, che sia proprio una cosa che uno nasce con la voglia di fare l'imprenditore. I genitori, io ho dato delle belle esperienze, a parte che i miei genitori erano agricoltori inizialmente, poi dopo successivamente hanno fatto i commercianti, diciamo, e è chiaro che quello che hanno trasmesso a me, già loro erano, si può dire, imprenditori, perché uno che è agricoltore già ha una piccola impresa, poi il commercio, anche se piccoli, però erano dei piccoli imprenditori, me l'hanno trasmesso, insomma, questa voglia imprenditoriale. Tutto ha avuto inizio quando Walter Scavolini ha creato nel 1961 con il fratello Elvino un'azienda artigiana per la costruzione di mobili da cucina. Nel 1967 ha fondato il mobilificio Fratelli Scavolini. Nel giro di pochi anni ha dato un notevole impulso all'attività. Nel 79 ha trasformato la società in nome collettivo in società per azioni, la Scavolini S.p.A. Ha raggiunto una posizione leader a livello europeo nella produzione di mobili e componibili per la cucina. Walter Scavolini è partito però dal territorio in cui viveva per espandere la sua idea e, nonostante le difficoltà, è cresciuto insieme al distretto di appartenenza, che ha avuto diverse evoluzioni. Agli inizi, diciamo, è chiaro che in un territorio, in un distretto, le cose sono più facili quando il distretto ormai ha parecchi anni di vita, perché per la produzione di certi prodotti ci vuole terzisti e quant'altro, insomma, che possa completare il ciclo di un prodotto. Però quando abbiamo iniziato noi le cose erano ben diverse da allora, la cucina non era così complessa. Noi abbiamo iniziato a produrre dei mobili composti che erano delle credenze, dei buffet, non servivano tante cose, e poi pian piano è chiaro che anche a Pesaro il distretto è cresciuto. Pesaro è cresciuta pian piano, anche se poi successivamente ha avuto anche delle difficoltà, perché bisogna prepararsi prima, altrimenti se si arriva poi dopo che uno non si è preparato, magari aziende non hanno un seguito. L'indotto, costituito dalle aziende fornitrici di parti componibili, che negli anni cresce attorno all'azienda, si rivela perciò una realtà fondamentale e importante per il territorio locale. Attualmente gli stabilimenti di produzione della società sorgono su un'area di circa 18 ettari, di cui oltre 7 coperti, dove lavorano oltre 530 dipendenti. Impegnato nelle associazioni di categoria, è tra l'altro membro del Consiglio e della Giunta dell'Associazione Industriali di Pesaro Urbino, oltre che della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro. Inoltre è componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scavolini, di cui è stato promotore e socio fondatore, costituita nel 1984 per la diffusione della cultura nella Regione Marche. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tuttora detiene. Dal 1995, tramite la Scavolini S.p.A., ha il controllo azionario della Ernesto Meda, azienda che produce cucine componibili, della quale Walter Scavolini è diventato presidente. Ecco come si cresce in modo esponenziale anche nel mondo. È chiaro che il mercato era difficile come era difficile oggi, non è che allora uno bastava che produrre. Però insomma dal piccolo siamo cresciuti man mano, già nel 63 abbiamo iniziato a produrre cucine componibili, l'azienda ha avuto una crescita abbastanza costante, nel 75 abbiamo iniziato a fare comunicazione con la squadra locale del basket, abbiamo iniziato sponsorizzando le classifiche dei giornali sportivi e poi già successivamente anche allargato la nostra comunicazione un po' su tutti i mezzi. Nell'84 addirittura siamo arrivati la prima azienda in Italia come quantità, come fatturato sul campo delle cucine. E lì abbiamo anche allora ancora intensificata la comunicazione prendendo un testimone importante come Raffaella Carrà, e francamente allora nel miglior momento della sua carriera è venuto fuori anche lo slogan "la cucina più amata degli italiani", era perché eravamo la prima azienda, e anche lei era venuto fuori su un giornale che addirittura c'erano tre grandi personaggi, e c'era la Carrà, Pertini il presidente e c'era il Papa, dove diceva "i più amati dagli italiani". Ecco, da lì è venuto fuori lo slogan. Francamente abbiamo avuto i 2-3 anni della Carrà veramente un grande successo, perché lei conduceva una trasmissione veramente interessante, perché era la prima trasmissione l'ora di pranzo. Dopo della Carrà c'è stata per tanti anni la Cuccarini. Scavolini, la cucina più amata dagli italiani. Scavolini, qualità e innovazione non solo in cucina. L'azienda è stata premiata da SGS Italia, leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione di beni, servizi e sistemi, con il prestigioso riconoscimento Merit Award, il certificato d'eccellenza destinato alle aziende che si sono contraddistinte per l'efficienza dal punto di vista della qualità in azienda, per l'attenzione alle tematiche ambientali e per la sicurezza dei propri dipendenti. Scavolini ha ottenuto la certificazione di qualità, la certificazione sulla gestione ambientale e la certificazione sul sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. Walter Scavolini spiega come si lavora per garantire un prodotto di alta qualità 100% made in Italy e sottolinea il grande lavoro che comunque è dietro le quinte rispetto a questi riconoscimenti. Beh, la fatica ce n'è tanta, bisogna fare le cose con serietà. Per noi era interessante certificarsi per avere un sistema qualità, in modo per avere un controllo. Cerchiamo di migliorare sempre, ogni volta. La soddisfazione del cliente è la migliore pubblicità. Vuol dire che tutto il personale che abbiamo, in testa mio figlio, perché è un figlio che lui segue tutta la qualità, certificazione e così via, vuol dire che stiamo facendo le cose come vanno fatte. Questo mi fa piacere. Attenzione ai dipendenti e al sociale. Scavolini è da sempre un'azienda particolarmente impegnata e sensibile nei confronti del proprio territorio e delle sue tematiche socioculturali. Un'attitudine che nasce da una filosofia aziendale orientata all'individuo. Proprio per dare maggiore forza a questo impegno, Scavolini ha dato vita alla propria fondazione. Un'idea nata dalla forte determinazione a non limitare gli interventi dell'azienda unicamente alle sponsorizzazioni. La Fondazione Scavolini si prefigge infatti, con vere operazioni di mecenatismo, utilizzando non solo risorse finanziarie, ma anche l'esperienza di operatività che l'azienda possiede, di incrementare e promuovere la ricerca nel campo delle scienze storiche, letterarie, economiche, della progettazione industriale e di favorire iniziative mirate all'istruzione, alla ricreazione e all'assistenza sociale. C'è un legame molto forte, diciamo che i dipendenti, la maggior parte sono del posto, però ci sono anche qualcuno che vengono dal sud e anche qualcuno che viene da fuori Italia. Però diciamo che la maggior parte del personale è locale. Noi cerchiamo di fare di tutto per andare incontro alle esigenze dei dipendenti, per quanto è possibile quello che può fare un'azienda. Vuol dire, ad esempio, qualche anno fa abbiamo fatto una mensa, che sappiamo benissimo quanto uno deve fare 10-20 km, quando è caldo, è freddo, nevica, così c'è sempre un rischio. Proprio nella crisi, Walter Scavolini ha pensato anche ai dipendenti. Ma il presidente dispensa anche consigli validi per tutti i momenti di difficoltà. Innanzitutto bisogna prepararsi prima e tenere ben salde le radici. Anche in questi periodi di crisi, anche se noi francamente la crisi ci ha toccato in modo un po' superficiale, però l'abbiamo detto e siamo riusciti anche a raggiungere questi obiettivi. L'avevo detto l'anno scorso io che avremmo fatto di tutto per quanto era possibile di non fare cassa integrazione, di cercare di mantenere tutti, anche quelli con i contratti a termine. Non abbiamo fatto cassa integrazione, abbiamo mantenuto tutti i dipendenti. Le crisi non è che si riescono a superare facilmente, uno non può fare tutto quello che fa tenendo conto che sempre tutto va a gonfie vele. Bisogna, quello che uno fa, pensare anche che possono venire dei momenti difficili. Le risorse, tanto umane ma in particolare economico, le abbiamo reinvestite, la maggior parte sempre nell'azienda, nelle cucine della casa madre. Ho sempre detto che non bisogna andare a delocalizzare, perché altrimenti se gli investimenti li andiamo a fare da altre parti, e poi le nostre aziende che abbiamo qui, le aziende che ci hanno dato queste soddisfazioni, diventano obsolete, magari non sono più competitive, e poi alla fine magari pian piano vanno a morire. Quello che si fa, farlo bene, è dove, in un settore dove uno ha conoscenza, perché è bene anche quello che uno fa abbia conoscenza di quello che viene fatto. Walter Scavolini ha anche una ricetta per il passaggio generazionale, che applica in un'azienda condivisa che vede una famiglia unita nel mantenere il legame con il territorio. Il passaggio generazionale da noi, diciamo, si può dire che già si può dire che quasi è stato fatto, però è bene che un domani anche diciamo, l'imprenditore, che saranno i primi figli e i miei nipoti, siano all'altezza di capire, vedere se quello che viene fatto è giusto o non è giusto. Acquisisce fiducia anche di sempre di più nei confronti dei dipendenti che ci sono a fianco a lui. Il bilanciamento vita e lavoro per Walter Scavolini è cambiato nel tempo. Quando si inizia l'attività ci vuole che uno deve dedicare tanto tempo all'azienda, ci vuole anche una famiglia che ti comprende. Si occupa di cucine da oltre mezzo secolo, Walter Scavolini, e può ben dire la sua sul futuro dell'ambiente più vissuto della casa. È un po' come l'abbigliamento, un vestito, si cambierà, diciamo, il colore, si cambierà magari la forma un po', ma la cucina rimarrà sempre tale quale. Però sarà sempre l'ambiente dove si passa la maggior parte, perché oggi gli appartamenti sono sempre più piccoli e di solito dove si pranza è un ambiente unico, perciò deve essere un ambiente caldo e piacevole. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.